A Rock FM sono le 8 spaccate. Che precisione. Pane, burro e rock and roll. La vostra colazione rock. La tua colazione rock. Quella che dà assuefazione, state attenti. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E allora iniziamo la seconda ora ufficiale di quest'oggi, puntata 114. Aiuto. Cosa è successo, Spadino? Ti è scattata una strombazzata di Treves. Dicevo, puntata 114, un'altra ora da passare assieme, parecchie le novità anche quest'oggi. Vi accogliamo sempre al numero di SMS e alla casella di posta elettronica. Agli amici della prima ora l'ho già spiegato. Oggi abbiamo poche ore di sonno alle spalle, quindi chiediamo scusa. Siamo messi un po' peggio del solito. Ma tranquilli, ci arriviamo fino alle 9. Lei ha clacsonato. Tu ha clacsonato? Io no. Ah, sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così. Non è possibile. Come no, prova. Fa un po' vedere. Davvero? Visto? Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna... Ma che fa? Scrive. Provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede? Una delle bandiere che sventoliamo dalle frequenze di Pane, Burro e Rock and Roll ha impressa una C gigante. Sa

Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Everybody. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Mr. Tambourine Man, Bob Dylan. Vediamo di fare un po' di saluti, dai. Un saluto a Vilma. Fricantoni conferma la sua presenza ieri in A1. È stato... Fricantoni è stato avvistato sulla A1 con la sua macchina. Un saluto anche a Lanci Patente 254, che sembra apprezzare la scelta del film che ci terrà compagnia fino a venerdì. Commenta: grandi amici miei, ma chi l'ha scelto sto filmone? Roberto Fricantani? Ma quanto siete avanti, ragazzi. Strombazzata per Luke Rarem, così si firma. Ieri sera si è sparato i Kula Shaker dal vivo a Ravenna. Sembra contentissimo. Un concerto come 10 anni fa, commenta. Molto bene. Un saluto anche a Dami92, toga toga toga toga toga toga. Sì. E ad Angelica, a proposito di cose da fare, commenta: oggi in Ateneo abbiamo lezione di parassitologia. Indovinate il titolo? I vermi. Gradite delle foto? Ciao Angelica, no grazie. Grazie mille. Siamo vicini anche a Dede. Caro Ariele, aiuto, non vedo più da un occhio, ho perso l'autobus e oggi devo stare tutto il giorno in università. Aiutatemi, per favore. Staremo in squadra con te. Runner 67, accettiamo il tuo commento. Basta chiamare gli omini che corrono con il termine jogging, va messo al bando. Non lo vogliamo più sentire, ok? Allora per noi di Pane, Burro e Rock and Roll siete omini che corrono, ok? L'ultimo saluto al gruppo d'ascolto Luca e Monia, con Carogna sui francesi, tra l'altro. Gruppo d'ascolto Logistica Carrefour, in coda da Cormanno a San Siro, con i maroni sottoterra. Perché non basta lavorare per i francesi, ci abbiamo pure la coda. Tenete duro, Luca e Monia. Tra pochissimo appuntamento con il test attitudinale e dalla redazione Vedo News, ok? Restate lì. Things you forget to say. Down here a million days, I know you'll get me through. You don't need to stay, because I'll never be alone. Do you need to cry? Anymore? Lei non può immaginare la carta che viene gettata via nelle redazioni dei giornali italiani. No, lo immagino, anzi, lo immagino e mi dispero per lo scempio, per il cattivo consumo, bisognerebbe riciclarla. E noi qui a Pane, Burro e Rock and Roll vogliamo dare un piccolo esempio. Perché gettare via certe notizie? È vero, forse non ci puoi fare una prima pagina. Forse una seconda pagina nemmeno, ma vogliamo non mettere una quarta di copertina, una terza di copertina, una noticina? DJ Ariel, posso fargli complimenti? Sì, grazie. Questa introduzione era travolgente, il tutto perché lei ci sta sì. presentando... L'ansinanza! Ovvero lo strano ma vero. Quest'oggi voliamo, volate con noi fino in Australia, il titolo è questo, per 19 milioni di euro e fa causa al casinò. Che bella bravo. Soddisfazione, bravo, molto rock, deve essere un rocker. Vada con la notizia, maestro. Non si è dato perverso. Come si dice, e io vorrei iniziare con un proverbio, sì. chi è causa del proprio mal pianga se stesso. Ci sta bene. Allora, un certo Harry Cavacas, ricco proprietario terriero australiano del Queensland, dopo aver perso 19 milioni, 19, ragazzi, sto parlando sì. di 19 milioni di euro con il gioco d'azzardo, ha infine deciso di trascinare in tribunale il casinò che, a suo dire, era responsabile per il suo proprio comportamento incosciente. L'uomo, che avrebbe perso la somma sul tavolo di Baccarat fra il 2002 e il 2004, ritiene di essere stato adescato dal personale del Crown Casino di Melbourne Cavacas, a prova di quanto da lui sostenuto, ha detto di aver già chiesto in passato gli venisse impedito l'accesso alla struttura, ma il personale evidentemente ha provato a far desistere dallo sperperare il patrimonio, ma provare a fermarlo e riuscire a fermarlo in realtà sono due cose diverse. Cioè, provare e riuscire davvero è una ben altra cosa. La casa da gioco, invece, il casinò, sostiene di aver scoperto che l'uomo, il nostro Harry, per soddisfare la voglia di gioco d'azzardo, volava spesso fino a Las Vegas, dove forse si sentiva meno sfortunato, meno iellato. A quel punto, perché vietargli l'ingresso alla struttura in Australia? Per evitare che Cavacas portasse il proprio gruzzolo dall'altra parte del mondo, i responsabili del casinò lo hanno conquistato offrendogli dei voli privati gratuiti per raggiungere Melbourne, distante 1300 chilometri dal Queensland. Perché farlo andare a perdere ma i soldi, certo, dall'altra parte? Sono stati bravi. Tra l'altro pare che la procedura sia comune a quasi tutte le più importanti case da gioco del pianeta, cioè i casinò, per attirare i clienti, vi offrono dei viaggi sconti, gratis. Esatto, che carini. Magari anche, non so, vi ospitano in albergo gratuitamente, il tutto per farvi giocare e non ci rimettono. Ribattono i legali del casinò, ognuno dovrebbe essere responsabile delle proprie azioni. Si attende adesso la decisione della Corte Suprema australiana, che stabilirà se accettare o meno la richiesta di risarcimento di Cavacas. Sa che la vedo male? La vedo male. DJ Ariene, per Cavacas, sì. Per il nostro rocchettaro Harry. No, un giocatore sfrenato. Un giocatore assolutamente incontenibile. Attenti là fuori a perdere 19 milioni di euro, poi brucia. Sì, brucia parecchio. Dove decidete voi, ma brucia. Brucia e come. About dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other, and both of my feet's too long. Of course, not right along with them, I got no natural rhythm, but I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. I jump out of my seat, but I can't compete, 'cause I'm a dancing fool. I'm a dancing fool. The disco folks all dressed up like this fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. He hasn't been while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. Together now with my very own disco clothes. Hey, my shirt's half open to show you my chain and the spoon for up my nose. I am really something, that's what you'd probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink while I dance the night away. I'm a dancing fool. Totally totally wrong with them. I may be totally wrong with them. I may be totally wrong with them. Darling, can I buy you a couple of drinks? Looking for Mr. Goodbar? Here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian. Huh? You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine? Yes. Abbiamo un test attitudinale sotto mano, che ce ne facciamo? Lo sottoponiamo agli ascoltatori di Pane, Burro e Rock and Roll. E con questo sono due punticini che si possono beccare se rispondono esattamente. Esatto, perché se sbagliano invece si resta a bocca asciutta. Quest'oggi abbiamo un accadimento, sa, il mondo del rock è pieno di fattacci buffi. Ce lo dica. Oggi è proprio un fatto buffo, un divertente accadimento raccontato da un componente di una band inglese. Questo racconta che il 3 dicembre del 78 si è trovato in una situazione piuttosto imbarazzante durante un concerto dei Generation X di Billy Idol. Senta qua cosa racconta. Dica, sono tutto orecchi. Dopo il concerto, racconta l'anonimo rocker, ho vagato fino al camerino dei Generation X per trovare un bagno, ma qualcuno alla porta ha detto che non potevo entrare. Io ero disperato, così l'ho ignorato e sono andato dentro. C'era Billy Idol in piedi contro l'orinatorio con una ragazza in una posizione abbastanza compromettente. Lui mi ha fatto il famoso ghigno, ma ho pensato chi se ne frega, io non me ne vado, così sono andato vicino a lui e tirato fuori il mio pistolino. Lui diceva solo non essere nervoso. Io mi sono girato verso di lui e ho detto ok Billy, così gli ho pisciato addosso. Secondo voi chi è il fortunato che l'ha fatta su Billy Idol? Ipotesi numero 1, risposta A, Johnny Rotten dei Sex Pistols. È forse lui? Ipotesi B, Peter Hook dei Joy Division. È forse lui? Ipotesi C, Lawrence Toldhurst dei Cure. È stato lui? Chi l'ha fatta su Billy Idol? La soluzione, come al solito, ve la diamo dopo, e cioè la risposta esatta a tra poco.